Beia zitta. Fummo costrette a fermarci in un comando militare. Un ufficiale che parlava soltanto turco donò a ognuna di noi una rosa di macchia color rosso scuro. Prese posto a bordo e confiscò i nostri apparecchi, essendo proibito fotografare. Superata la triplice porta a feritoie dei bastioni di Erzurum, l'Argiron di Marco Polo, la città mi apparve cambiata. Erano stati costruiti marciapiedi, tesi, fili elettrici, vi era persino un accenno di giardino pubblico. Le vie erano tuttavia sempre fiancheggiate da quelle case basse e austere in pietra a secco attraversate da travi orizzontali. Case troppo pesanti alla sommità, con i tetti piatti di sporgenze e di spessore tali da sembrare sul punto di cadere nel fango della strada. Nella migliore locanda, un commesso viaggiatore dovette accettare docilmente di cederci la propria camera. Sul versante sud di questa valle desolata si innalza, dominando un ammasso di macerie, un'imponente cittadella. Non un albero intorno. Sedute tra una vacca solitaria e un vecchio cannone di lucido bronzo, ascoltiamo il silenzio. Un bambino si diverte ad applicare ai muri della cittadella quadrangolare formelle di sterco. I grandi blocchi di pietra rossiccia indicano una loro appartenenza lontana a edifici più delicati e più antichi. Teodosiopolis fu costruita nell'intento di difendere dall'invasore la più orientale delle province bizantine. Incendiata dalla luce del sole che tramonta in fondo alla vallata, la cittadella sembra un muro fiammeggiante, innalzato a sfidare la notte dei tempi. In controluce, gli scuri profili dei minareti sovrastano la città grigia e lontano si stende la pianura immersa in una livida luce giallastra. Ma all'improvviso, tra un lato e l'altro della valle, si disegna un arcobaleno. Voltandoci, ammiriamo il contrasto di colori. Sullo sfondo di nuvole nero-blu si slanciano, investite dal sole, le pareti splendenti, con scanalature color fuoco di due torri che dominano l'arco di uno stretto portale, dove il turchese brilla delicatamente tra le spirali della pietra nuda. Si tratta del minareto della Kifte. Le proporzioni armoniose, le linee pure della pietra intagliata e scolpita a forma di foglie, di lettere arabe o di aquila bicefala lo rendono di una bellezza sorprendente. Il cortile interno, nonostante il colonnato delicato, crea un'atmosfera severa. All'estremità dello spazio vuoto si innalza una piccola costruzione chiusa, un liva probabilmente, destinato agli studi religiosi. Secondo la descrizione dell'Armenie di Texier, si tratterebbe del sepolcro appartenuto ai suoi fondatori e il lussuoso edificio non sarebbe che un ospizio. Avevo avuto un'impressione simile, come di religiosità puritana, parecchi anni prima, entrando nella madrassa silenziosa e deserta di Ulugbek a Bukhara. La madrassa è la scuola coranica. Anche se quest'ultima, costruita in mattoni alla fine del XV secolo, è ben inferiore all'aristocratica Kifte edificata in pietra nel XIII secolo. Dietro al monumento, in una cinta anch'essa abbandonata, scopro una di quelle tombe che più mi affascinano, rotonda, con il tetto conico, costruita in blocchi di pietra decorati da un'unica fuga di archi con modanature a tortiglione. Avevano iniziato i lavori per liberare la base di questa sobria costruzione. Mentre ritorniamo sulla via dalla pavimentazione diseguale, sentiamo minaccioso il rombo del tuono. Fortunatamente il nostro giovane amico è ancora seduto sul muro. Prima di entrare nella Kifte, attratta dal viso franco del ragazzo, unica presenza nel quartiere deserto, avevo arrischiato un «parli francese?» ed egli mi aveva risposto in questa stessa lingua spiegandomi che quello era il muro della sua scuola. Desiderando avere dettagli sulla Kifte, lo preghiamo di condurci dal suo insegnante. Il cielo si oscura vieppiù, ci affrettiamo verso l'entrata del seminario le cui porte si aprono per noi. Siamo introdotte nell'ufficio del direttore, dove portano lampade e ci offrono una tazza di tè, mentre una cinquantina di ragazzi ci osservano, ognuno con una domanda sulle labbra. Circondate dalla loro insaziabile curiosità, passiamo un'ora conversando amabilmente. Essi mi ricordano quel bisogno profondo che talvolta si impadroniva di me quando, lungo il percorso verso la scuola, Fermavo stranieri e straniere per la strada chiedendo loro da quale paese provenissero. Secondo una tradizione popolare, sarebbe stato lo scià di Persia, Catuivà, a ordinare tale costruzione per essere seppellito nella tomba circolare. In mancanza di un santo mi piacerebbe che fosse uno scià a riposarvi. Ma per gli archivi che fanno riferimento al monumento, questo sarebbe stato edificato nel 1253 da Hundi Khatun, nipote del sultano Selgiuchide di Konya. Nel XVII secolo l'edificio fu trasformato in una fonderia. Durante la guerra fra Turchia e Russia del 1827, i russi saccheggiarono il luogo sperando di trovarvi lingotti d'oro. Vi scoprirono soltanto antiche armi, caschi, spade, scudi e alcune iscrizioni caldee. Le splendide porte dell'Iva furono asportate per ornare una chiesa della Georgia. Avevamo lasciato Erzurum molto deluse. Né il sindaco né il capo della polizia vollero permetterci di fotografare l'interessante Kifte. Non avere raccomandazione di sorta giocò evidentemente a nostro sfavore. L'Armenia è fredda, monotona e indimenticabile. Un vento greve soffiava sulla vasta regione la cui altitudine si aggira sui 2000 metri. Là l'estate è così breve che il grano deve maturare in 60 giorni e l'orzo in 40. Lungo l'alta valle, il nastro d'argento dell'Arax scivolava verso oriente, passando a nord dell'Ararat, per scomparire per un tratto e delimitare poi la frontiera tra l'Iran e la Georgia sovietica prima di finire il proprio viaggio nel Caspio. Munite di mazzuoli, alcune donne battevano il grano in un mortaio. Una di loro, la cui bocca si ornava di una dentatura impressionante, rise delle mie gambe illividite dal freddo dell'estate armena. Mi pizzicò il polpaccio e, mostrandomi i suoi ampi calzoni, mi consigliò di seguire la moda del paese. Un'altra donna aveva, secondo l'uso tradizionale turco, le sopracciglia unite da un tratto di polvere nera. Penso che fosse armena o curda, a giudicare dalla piccola calotta rotonda che portava sul capo sotto il velo. Tutte riparavano la loro veste gialla o rossa con un grembiule legato alla vita e al collo. La gonna aveva uno spacco davanti per permettere di cavalcare agevolmente. Eravamo sole sulla strada. A parte qualche vecchio carro con ruote piene intagliate in un solo blocco di legno, trainato da buoi, i quali avanzavano faticosamente a passo di lumaca. Il canto melodioso dei loro assali risuonava a distanza. Quel clima antico della regione era sottolineato altresì dal bel ponte a schiena d'asino di Copricoi, costruito circa 700 anni prima dai Selgiuchidi. Poco lontano, cinque paia di buoi tiravano alla maniera di un tempo un altro carro che però portava scritto in russo un marchio di fabbrica sovietico, Krasny Zavod. La contrada era malinconica, rabbrividivo al pensiero di ciò che poteva essere durante il lungo inverno. Sembra che proprio per questa vallata sia stato scritto il primo versetto del Vendidad, una delle sezioni della Vesta, il testo sacro del mazdeismo, quando Ahura Mazda dice a Zoroastro: «Ho creato ogni terra cara ai suoi abitanti, sebbene essa non presenti ovunque luoghi piacevoli, e se non avessi agito così, l'intero mondo dei viventi avrebbe invaso l'Airinivaeya, il paradiso di Zoroastro». Ahura Mazda è il dio supremo nella religione dell'Iran preislamico. I due aspetti della sua natura vengono personificati in Spenta Mainyu, spirito santo, e Hara Mainyu, spirito maligno, detto anche Ahriman o Arimane. Sul monte Ararat cadeva, giorno dopo giorno, una pioggia incessante. Dicono che colà si fosse fermata l'arca dopo il diluvio universale, ma non era stagione di simili acquazzoni e gli armeni temevano per le loro messi. Mentre noi eravamo preoccupate per lo stato della pista quando ci saremmo avvicinate alla frontiera dove la strada non era ancora costruita. Vedemmo il sobborgo di Tashlihai in cui, arrivando da Maku, avevo passato la notte 2 anni prima. In quell'occasione una delle balestre si era spezzata a causa delle pessime condizioni della strada. Ricordo che ci eravamo incamminate nel fango, avvolte da una fitta oscurità, alla ricerca di un rifugio. Alla fine, Come ultima risorsa mi ero messa a gridare: «Qualcuno parla francese?» Una voce senza accento mi aveva risposto nella stessa lingua, offrendoci di buon cuore un asilo. Eravamo stati accolti in un dormitorio refettorio dove vivevano una mezza dozzina di ingegneri civili. Nell'impossibilità di muoversi dal loro selvaggio Far East, si comportavano come esiliati a cui una visita regalava un momento di distrazione. Ci offrirono caffè e rachi al suono stridulo di un grammofono, e il pavimento della precaria costruzione presto tremò sotto i nostri piedi che battevano il tempo di un valzer viennese. Il loro capo, Adnan Bey, ci informò che i lavori erano fermi ormai da ottobre a causa della neve. In inverno la temperatura raggiunge talvolta i 50 gradi sotto zero, essendo l'Armenia per latitudine una delle zone più fredde del nostro pianeta. Attraversando ancora una volta il paese e presumendo che Adnan Bey vi lavorasse ancora, mi aspettavo di incontrarlo da un momento all'altro. Mentre sull'ampia vallata imperversava un tempo da diluvio universale, fermammo la macchina vicino a un posto di polizia. Calzati di stivali e vestiti di spessi giacconi di cuoio, erano accampati là alcuni operai che lavoravano alla costruzione della strada. Dividemmo un piatto di riso e montone e conversammo in russo, dato che uno di loro era un georgiano di Batumi. Benché di una certa età, egli dichiarava di sentirsi troppo attivo per decidere di andare un giorno o l'altro in pensione. Il figlio aveva un garage a Trebisonda e la figlia, di cui mostrò con orgoglio la fotografia, studiava medicina a Parigi, naturalmente a sue spese. Il nostro nuovo amico si chiamava Shoruk, proprio come il fiume che separa la Turchia dalla Russia. Aveva studiato come meccanico a San Pietroburgo, era poi diventato autista di un generale russo in Iran e ora si occupava dei 22 cilindri, o meglio zilindri, secondo la sua pronuncia, rulli compressori che spianavano quel tratto della nuova strada. Rude e gioviale, il mattino dopo si divertì a guidare la Ford sulla carreggiata vergine non ancora aperta al traffico. «Siete miei ospiti e mio dovere occuparmi di voi finché siete sulla mia strada», diceva. E quando la macchina si impantanò sulla sabbia nell'attraversamento di un guado, non ebbe che da fischiare per far apparire, come per miracolo, alcuni uomini fra i canneti. Ogni sua frase conteneva l'espressione «la mia strada» oppure «mia figlia la strada», ed era fiero degli alti costi e del gran numero di uomini che occorrevano per la sua costruzione. Sul lato nord-orientale della vasta pianura si delineava ora chiaramente la base conica dell'Ararat, fiancheggiato dal piccolo Ararat, ma la cima era ancora velata da umide e dense nubi. Quando Noè scese per questi pendii, ancora umidi e molli del diluvio, quanto magnifico e risplendente doveva essere quel giorno per l'umanità che rinasceva a nuova vita, pronta a scrivere la sua storia su una pagina senza sbavature. Si riprodurrà ancora un tale miracolo? Dovremo a nostra volta scomparire tutti, a eccezione di uno solo che cercherà di far meglio di Noè? Come giochi abbandonati tra l'erba secca della steppa, erano disseminate nella pianura rotaie contorte e piccole locomotive rovesciate, vestigia della linea costruita dai russi nella guerra del 14-18. In questa contrada, sprovvista di industrie moderne, era strano vedere rotaie utilizzate come architravi di porte, travi e putrelle, o persino come sbarre a protezione di monumenti ai caduti in guerra. Ma in Armenia gli alberi sono pressoché inesistenti. Qua e là, lungo la pista, alcune piastre di caldaia rimpiazzavano il cemento crollato di un ponticello di canale. Attraverso l'immensità di questo triste paese ci avvicinavamo infine alla città nuova di Bayazit. I cubi delle sue poche case si raggruppavano intorno a mandrie di buoi e a camion. Nei pressi vi erano mucchi di casse e cassette accatastate davanti a pile di mattoni appena levati dallo stampo. Verso sud, situata sull'alta insenatura di una roccia, la fiera fortezza dell'antica Bayazit dominava la contrada con il suo minareto, simile a un faro da cui era possibile spiare l'arrivo dei barbari. Da quando l'avevo intravisto dalla strada 2 anni prima, questo castello rappresentava per me una nostalgia costante, un richiamo che da lontano mi attirava. Alcuni turchi venuti ad accoglierci ci condussero a una tenda dove ci fu servito del riso pilaf, che Chiesi al mio vicino se sapeva in quale zona si trovasse Adnan Bey e scoprì che era proprio lui e che mi aveva subito riconosciuta. Raramente mi sono sentita così imbarazzata. In 2 anni Adnan era avanzato di 140 km. Ci spiegò le ragioni dell'interesse da parte degli iraniani per questa strada, il cammino più breve per l'Europa, fino a che non fosse stata ultimata, e si sarebbero dovuti infatti passare per la Siria o per il Caucaso. Ben sapendo la cosa, i russi avevano di recente chiesto una tale somma di denaro per lasciar transitare delle rotaie sbarcate a Batumi e delle quali gli iraniani avevano un forte bisogno, che lo Scià aveva rinunciato all'operazione. Quelle rotaie finirono per passare dall'Iraq, non potendo ancora essere trasportate su quella strada che seguivamo da Trebisonda a Tabriz. Ora che la ferrovia transanatoliana arriva dall'ovest fino a Erzurum, è probabile che Teheran diventi il nodo terminale della rete europea sudorientale. Shuruk spingeva la nostra Ford alla conquista della vecchia Bayazid. 8 km di pista, tutta curve, spesso ridotta a nuda roccia da secoli di uso. Bayazid era inquadrata da falesie a striature verdastre e rosse di splendido effetto. Ma il mio sguardo ritornava continuamente al promontorio da dove l'altera e luminosa cittadella drizzava alto nel cielo il suo minareto, solitario Montserrat islamico in questa sierra armena. Abbandonata l'automobile ormai rantolante al centro del villaggio arrampicato sull'altura, continuammo a piedi, seguite da gente coperta di vecchi abiti lisi e tristi. Gli uomini erano alti, magri, con volti cupi, soltanto un ragazzo era ben vestito. Il padre, un georgiano, possedeva l'unico appezzamento verdeggiante dei dintorni, un giardino incuneato a mezz'altezza tra i detriti dell'insenatura. Allievo del collegio di Erzurum, conosceva qualche parola di francese. Raggiungemmo infine il lungo muro della fortezza dai riflessi color ruggine. Il castello, costruito in pietre combacianti alla perfezione, conteneva, a quanto sembra, 300 stanze oggi tutte in rovina. Più nessuna traccia di mattoni verniciati, di mattonelle smaltate, di mosaici. L'unica decorazione rimasta era una scacchiera bianca e nera sulla navata centrale di una sala da ricevimento illuminata da splendide finestre. Apprezzai la sobrietà dei cortili collegati da porte ad arco a tutto sesto. Falde riccamente scolpite a tralci di vite davano una nota sontuosa all'insieme. Alcune canalizzazioni attraversavano la cittadella che un tempo era alimentata da acque correnti provenienti dalla montagna. Le vaste cucine avevano soffitti a volta dove due archi immensi si incrociavano ad angolo retto. Il tempo e i licheni avevano tinto di arancione le pietre squadrate della cupola sovrastante la moschea. 90 gradini conducevano alla sommità del minareto ornato da strisce orizzontali. Dal belvedere circolare, che sembrava oscillare a ogni raffica di vento, lo spettacolo era sconvolgente e commovente al contempo. Al di là delle catapecchie di Bayazid, come schiacciate ai nostri piedi, si umiliava la grande e grigia vallata dinanzi alla magnificenza dell'Ararat, che innalzava il suo cono vulcanico bianco di neve. Non lontano da noi, una massa di falesie rosse era incoronata da audaci fortificazioni. Sul lato di una parete, quasi a ricordarci che eravamo in Asia, si spalancava l'apertura quadrangolare di una tomba, simile a quella di Dario a Persepoli. I bassorilievi, scolpiti sui fianchi, rappresentavano però personaggi assiri. Affrontai con coraggio la scalata per giungere in cima, ma arrivata là, dovetti constatare che l'interno era vuoto. Mi chiesi chi mai aveva voluto farsi seppellire in quel nido d'aquila. Ansiose di continuare la nostra esplorazione, non ci concedemmo riposo alcuno finché, tra grida di taccole indignate, non raggiungemmo la sommità delle falesie di fronte alla cittadella. Da lassù, il grande castello sembrava al medesimo livello del villaggio sottostante. Ci chiedemmo con curiosità da dove fossero state tirate le palle di cannone che avevano intaccato le mura della fortezza. Venne infine l'ora di tornare indietro. Scendemmo a precipizio per un pendio che portava a una piccola moschea in rovina, un minareto addossato a una semplice cubo con il tetto a cupola, che sembrava vecchia come il mondo. Ci sedemmo appoggiandoci a una parete di quella costruzione e guardammo tramontare il sole. Quando un sito mi appassiona, devo assolutamente conoscerne la storia. Chi fu l'autore di quei cipressi di pietra in rilievo, simbolo di immortalità, e di quei cartigli sopra le finestre quadrate sormontate d'archi, di quel leone in bassorilievo la cui coda levata si insinua tra fiori e frutta, e di quella trave di balcone che si allunga in forma di levriero sostenuto da un arco rampante con all'estremità una testa d'uomo. La cittadella fu costruita per ordine del sultano ottomano Ildirim Bayezid per difendere la regione dagli attacchi di Tamerlano lo Zoppo, imperatore di Samarcanda. Il sultano fu però sconfitto da costui nella piana di Ankara e portato via prigioniero, morì un anno dopo. Nel 1805 l'ufficiale Joubert, che serviva sotto Napoleone, fu inviato in missione segreta in Armenia, dove venne arrestato da Mahmud Pasha, un curdo che regnava a Beyazit in un palazzo adiacente alla fortezza e il cui lusso stupì tutti quanti lo videro. Questo tirannico Pasha morì durante un'epidemia di peste e anche Joubert rischiò di fare la stessa fine. L'ufficiale riuscì a darsi alla fuga attraverso un passaggio segreto che univa la sua cella agli alloggiamenti delle serve adibite all'harem. Nel 1835 un viaggiatore di nome Brandt scriveva che quel palazzo era il più splendido di tutta l'Anatolia. Da altra fonte veniamo a sapere di saloni con dorature ad arabeschi, di mobili rari, di tappeti preziosi e di tesori immensi accumulati a Beyazit. La moschea che porta il nome del Pascià Belul, figlio di Mahmud, era celebre per le sue proporzioni e per i marmi del suo colonnato. Nel corso di ognuna delle tre guerre contro la Turchia, avvenute nel XIX secolo, i russi si impadronirono di Beyazit. L'Ararat era ancora visibile e sul fianco in ombra luccicavano i riflessi delle acque sorgive. Provammo la sensazione intensa di trovarci alla fine di un mondo e al contempo di essere vicinissime a un altro, totalmente nuovo. Quella fortezza ha un eguale soltanto in quella di Baku, eretta in una gola che porta in Iran. Vedendole entrambe, se ne apprezza pienamente la strana bellezza. Appena alzate per riprendere il cammino, fummo ricondotte al presente dalla voce dello scolaro georgiano. Dovreste riposarvi ancora, mi consigliò. Vostro figlio è molto stanco. Al crepuscolo, mentre stavamo lasciando Beyazit, l'acre odore di sterco bruciato aleggiava sul villaggio. Per una volta non discutevamo se fossero i turchi o gli armeni a discendere dagli ittiti, ma ci interessava sapere a quale stile si ispirasse quella roccaforte. Azerbaigian. Fra mille sobbalzi percorremmo i 45 chilometri che ci separavano da Bazergan. Questo posto di frontiera non era cambiato. Dalla parte turca la scena era sempre la medesima: un gatto scheletrico, una donna che allattava, il capo coperto da una sorta di impalcatura simile a quella usata dalle donne turcomanne, seduta a gambe incrociate vicino alla solita catasta di combustibile essiccato. Un'unica differenza: questo bambino era più grande. C'era sempre lo scemo del villaggio che tirava un carrettino ed erano stesi sul muro ad asciugare gli stessi tradizionali tappeti di feltro. Al posto di frontiere iraniano, che ricordava una classe di una qualunque scuola, tememmo di non poter proseguire oltre. Con un certo imbarazzo, l'impiegato aveva subito dovuto ammettere di non sapere che fare di noi due, della Ford e neppure del nostro documento di viaggio. Cristina si occupò personalmente di riempire le voci sul registro, dove constatò che la nostra vettura era la seconda iscritta. Proprio in quel momento l'uomo scoprì che i nostri visti erano stati rilasciati dal ministro egiziano a Parigi e, poiché i passaporti diplomatici possono essere firmati soltanto dai ministri, non si capacitava del fatto che quel diplomatico fosse stato abilitato a sostituire il ministro iraniano in vacanza. Io, in possesso di un passaporto ordinario, avevo dovuto rivolgermi al console iraniano di Parigi per avere il visto, ma mi era stato risposto che non ne rilasciava più. Come ultima risorsa, Cristina aveva mostrato il mio passaporto al ministro egiziano, pregandolo di occuparsi anche di quel documento, in quanto la mia presenza le era indispensabile per il viaggio. In tal modo avevamo ottenuto finalmente i timbri necessari. Dopo interminabili discussioni, l'impiegato, convinto dalle nostre spiegazioni, decise di farci proseguire. Ma, estenuate da un così grande sforzo di eloquenza, non fummo in grado di contare esattamente i biglietti di banca europei di cui si deve scrivere la distinta sui passaporti. Tale errore, scoperto soltanto in seguito al momento di lasciare l'Iran, ci avrebbe fatto passare una delle ore più sgradevoli che io ricordi. Riprendemmo infine il viaggio, dirette verso il passo di Maku. Quali stipiti di uno scenario, due falesie rosse fiancheggiavano la gola che Tamerlano non era riuscito a conquistare, pur essendosi impadronito delle fortezze di Van, di Erzurum e di Bayezid. In seguito, Abba I, il grande scià di Persia, decise di sbarazzarsi del Khan di Maku, un bandito che saccheggiava impunemente le carovane del regno. Con 4.000 cammelli, caricati ognuno di due casse, in ciascuna delle quali si celava un soldato, lo scià, travestito da mercante, chiese al Khan il permesso di mettere per la notte la carovana al riparo nella gola. Il Khan acconsentì e, non appena gli animali furono colà raggruppati, tutti i soldati uscirono dal loro nascondiglio e conquistarono in brevissimo tempo il luogo. Mentre Bayazid contempla liberamente dalla sua spalliera rocciosa l'emisfero nord, le piatte case di Maku, rivolte a sud, rimangono seminascoste da una gola su cui il sole non si attarda mai. Pur così diversi, questi due siti sono entrambi stupefacenti. In tempi remoti, ognuno seppe rispondere alle necessità della vita medievale, proteggendo e difendendo sempre la popolazione. Oggi, per adeguarsi agli attuali bisogni commerciali, i due agglomerati tendono a spostarsi verso la strada di transito. Benché fossero soltanto le 5 del pomeriggio, decidemmo di rimanere a Maku. Eravamo arrivate da poco nella locanda, quando da un cielo blu si scatenò all'improvviso il temporale più violento che mai abbia visto in vita mia. Scese la notte sulla terra. L'acqua scrosciava battendosi su ogni cosa, una fitta rete di lampi illuminava senza tregua nubi violette, mentre una falda d'acqua spumeggiante cadeva a cataratta dalla cima della falesia a strapiombo. Non saprei dire se fosse più spaventoso il frastuono di quel nuovo diluvio universale o la vista della bianca cascata che scendeva da un'altezza di 600 metri sul nero villaggio del tutto in suo potere. Il cortile della locanda era già trasformato in una sorta di cisterna. Il torrente di acqua impetuosa, le grida, il fragore dei tuoni, il rimbombo della valanga, tutto si fondeva in un unico ruggito. Scarmigliate, gocciolanti, infangate, alcune livide creature con i pantaloni arrotolati sopra le ginocchia invadevano poco alla volta la locanda. Esseri disperati e gementi che avevano perduto tutto. Un fiume di ghiaia alto 6 piedi aveva invaso il vicolo principale del paese. Lo hammam, i bagni pubblici e la moschea erano sprofondati per primi. Si sentivano richiami di vacche imprigionate o mortalmente ferite sotto le macerie. Nel frattempo, per nulla impressionato da tale disastro, il figlio dell'albergatore, armato di una stilografica, la mia, annotava via via che gliele dettavo le parole francesi corrispondenti alla sua lunga lista di termini persiani. La nuova strada avrebbe portato in futuro un costante afflusso di viaggiatori a Maku ed egli voleva essere pronto a riceverli. Il ragazzo era chino sotto quella medesima lampada a petrolio vicino alla quale 10 anni prima un tedesco dai modi riservati aveva affermato, in mia presenza, di ritenere Hitler il solo uomo di Stato che avesse il coraggio di dire la verità. Come per miracolo, la calma regnava di nuovo quando ci coricammo su letti metallici sfondati. Ci attendeva una dura battaglia sotto le lenzuola contro pulci affamate e sopra contro moscerini flebotomi. Al chiarore del nuovo giorno, le pareti della roccia ostentavano un rosso superbo sullo sfondo blu intenso del cielo. Ci inerpicammo per il villaggio dove tra muri crollati e ripiani demoliti la gente si affannava a salvare il grano e qualche utensile da cucina. Il sindaco aveva deciso di non ricostruire più le case sulla stessa area, ma al fondo del vallone vicino alla strada. Così il cielo aiutava il paese ad adattarsi alla nuova epoca. Girovagammo sotto la parete a strapiombo cercando di indovinare il suo segreto. Macu, scrive il luogotenente colonnello C.M. McGregor in Central Asia, è famosa per la sua caverna gigantesca lunga 1200 piedi, larga 800 e profonda 200. Sembra che esistano in questa falesia immensi granai e che essa possa accogliere 3.000 uomini. All'interno si trovano incisioni scolpite nella roccia in una lingua sconosciuta. L'erede di tale magnifico antro poteva prenderne possesso soltanto dopo aver giurato che mai avrebbe lasciato penetrare colà uno straniero. Riuscimmo a entrare in una spaziosa dimora dotata di due cortili lastricati di proporzioni armoniose. Tutto appariva decrepito, anche se vestigia di vasche e di aiuole evocavano un'opulenza ormai scomparsa. Alcune stanze davano sulla facciata. Da quell'altezza dominavamo tutto l'anfiteatro, sentendoci vicine alle aquile che compivano aeree evoluzioni intorno alla falesia.